Lab. Il cibo del futuro e il futuro del cibo. Di Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco. Tutto ciò che serve a maneggiare meglio l'acqua oggi e soprattutto nel futuro è cruciale. Pensa quanta ne viene usata per la filiera alimentare e agricola. Ecco, di questo parliamo, di una nanomembrana che riduce lo spreco. Ed è per questo che qui con noi c'è Giovanna Ferrentino, benvenuta. Salve a tutti. Benvenuta. Lei è ricercatrice presso la Facoltà di Scienze e Tecnologia alla Libera Università di Bolzano e proprio lì, in questi laboratori, voi avete messo a punto, avete brevettato un nanotessuto, una nanomembrana, adesso ci spiegherà come, che riduce proprio lo spreco di acqua nell'ambito della produzione alimentare, nell'industria proprio. Con il gruppo di ricerca del professore Scampicchio abbiamo messo a punto e brevettato una nanomembrana che abbiamo pensato proprio per essere applicata in tutti quei campi dell'industria alimentare in cui lo spreco d'acqua è notevole. Se infatti pensiamo ad esempio che per produrre banalmente un litro di succo di mele occorrono di solito da 3 a 9 litri di acqua che viene utilizzata per il lavaggio delle mele, degli impianti. Acqua che poi viene sprecata di fatto. Sì, certo, acqua che poi viene ovviamente, perché contaminata, viene dispersa, viene, insomma, certo. Sì. E voi avete messo a punto questa nanomembrana che sarebbe utilissima ad esempio per il filtraggio, in questo caso del lavaggio delle mele, quindi del succo di mela, ma anche per altri ambiti, vero? Sì, ad esempio anche per pastorizzare o eliminare batteri da acque che... che sono contaminate, ad esempio acque reflue, che quindi vengono, che possono essere contaminate con batteri. Sì, si tratta di una nanomembrana che noi abbiamo realizzato in laboratorio ed è davvero molto semplice. Abbiamo utilizzato un polimero che è il nylon 6. Nylon 6 a noi viene subito in mente il nylon, cioè una sorta di plastica. Sì, è una sorta di plastica che tramite una tecnologia dell'elettrofilatura o dal punto di vista scientifico chiamata elettrospinning genera appunto questi filamenti che creano una maglia molto fitta e appunto che ha particolari caratteristiche e se la si guarda al microscopio ha un'enorme superficie. Questa grande superficie permette appunto di trattenere una maggiore quantità di batteri, di impurità presenti nelle acque. Sì. Ma esatto. Lei ha parlato allora di due applicazioni molto diverse. Da una parte un'industria che per esempio usa l'acqua per i suoi prodotti, quella dei succhi, allora lì si mette nell'impianto il filtro e otteniamo acqua normale che ritorna in produzione. Oppure sì, io per esempio ho visto un ricercatore con un filtro nano, l'ha preso praticamente da acqua di fogna, l'ha messo in un termos, poi ha rovesciato e si è bevuto l'acqua filtrata. Quindi si va in queste due direzioni. E certo. Poi ovviamente le applicazioni sono tante, anche nella produzione della birra ad esempio. Noi stiamo brevettando e stiamo studiando membrane all'interno delle quali immobilizziamo ad esempio lieviti che poi vengono utilizzati per produrre la birra. In questo modo il lievito rimane quindi sulla membrana e non che poi può essere facilmente tolta nel momento in cui è finito il trattamento quindi della birra e lasciare quindi evitare quindi poi ulteriori filtrazioni del prodotto che sono a valle del processo. E avete stimato più o meno quant'è l'acqua ripulita in qualche modo che si risparmia o che viene poi rimessa nel sistema? Quasi tutta l'acqua, non c'è uno spreco. Non c'è più spreco? No, perché è un passaggio attraverso una membrana sulla quale si fermano appunto questi batteri o residui e quello che è a valle della membrana è acqua che può essere utilizzata. Sì, gli sprechi sono pochissimi. Senta, ma i filtri invece si rinnovano ogni volta oppure bisogna cambiarli? Bisogna cambiarli, però abbiamo bisogno di utilizzare delle sostanze comunque acidi o basi che non danneggino poi la struttura della membrana. Certo, ma allora i filtri costano poco, insomma la cosa è conveniente anche per questo? Sì, la tecnica non è costosa, è abbastanza conveniente. Sì, se si pensa a a tecnologie tipo lampade ad ultravioletti che vengono di solito utilizzate per questi tipi di trattamenti, il costo è molto più competitivo rispetto a questi. Ecco, infatti la caratteristica, diciamo, innovativa del vostro brevetto, essendo brevetto era qualcosa che prima non c'era, è proprio questa, nel senso che siete riusciti ad avere una membrana molto efficiente, allo stesso tempo low cost, perché appunto il nylon è un materiale che è poco costoso e quindi facilmente utilizzabile in moltissimi ambiti. Ecco, è un po' questa la caratteristica innovativa. Sì, questo è quello di cui andiamo fieri, ecco. Quindi sì, e poi ovviamente questo è solo il primo passo. Il nostro obiettivo è creare delle nanomembrane di materiali completamente naturali. Ad esempio, stiamo provando a mettere a punto nanomembrane fatte di collagene che estraiamo appunto da residui della carne trasformata. Che percorso strano. Creare una sorta di quello che ovviamente viene oggi considerato uno scarto, valorizzare lo scarto e poi trovare un'applicazione innovativa in una nanomembrana. Il futuro potrebbe essere sostituire questo nylon con dei materiali ottenuti dagli scarti, così che c'è una doppia convenienza. Sì, sì. Quali sono gli altri materiali che state studiando oltre al collagene? Stiamo utilizzando, cercando comunque di mettere a punto una metodologia per creare una nanomembrana con il chitosano. Il chitosano sostanza, però ci deve spiegare che cos'è. Sì, è una sostanza che viene ottenuta estratta dal guscio di granchi, gamberi, e quindi anche lì è una sostanza naturale. Oppure la zeina, che anche deriva dalla lavorazione del mais. Ah, ok, quindi tutti i materiali che comunque noi butteremmo, scarteremmo. Sì, sì, tutte sostanze di scarto che ovviamente stiamo cercando di valorizzare. Ok, il brevetto è operativo, cioè si può già utilizzare o lo stanno già utilizzando? Sì, si può utilizzare, al momento ancora non è stato ancora implementato in un impianto industriale. Va bene, allora buon lavoro davvero, dottoressa Ferentino. Grazie a voi. Arrivederci. Per l'opportunità. E buon lavoro. E per ora è tutto, ma torniamo presto con Food Lab.